Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e siamo arrivati a venerdì. Buona giornata a voi, benvenuti. Abbiamo Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i temi di cui ci occupiamo oggi. Mondiali da guardare, calcetto da giocare. Lirica per il cuore. TV Dinner, è questo il suo momento. Anche se oggi non è domenica, anche noi parliamo di calcio, ma non solo, infatti daremo spazio anche al calcetto. È tempo di mondiali, ci sono partite tutti i giorni e sempre domenica, ma si intensificano anche le occasioni per fare una partita di calcetto con amici. Allora io ho preparato una squadra, scendiamo anche noi in campo. E che squadra? Il dottor Franco Confalonieri è un ospite fisso e lo saluto. Buongiorno, ben ritrovati tutti. È pronto? Sì, assolutamente. Ma qua in studio con noi, e noi ne siamo molto onorati, abbiamo il dottor Piero Volpi, che è responsabile di ortopedia del ginocchio e traumatologia dello sport in Humanitas e consulente dell'Associazione Italiana Calciatori Professionisti, nonché lo specialista del mese di Humanitas. Buongiorno dottor Volpi. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, calcio e calcetto, questo è il tema di oggi, dottor Confalonieri. Sì, perché i mondiali o comunque queste manifestazioni aumentano il desiderio e la voglia di giocare, di cimentarsi, di sfidarsi, e teoricamente la stagione estiva è anche la più adatta da un punto di vista climatico, quindi in questo periodo si moltiplicano le partite tra amici con tutto quello che ci portano di buono in termini di divertimento, socializzazione, salute, ma anche con tutto ciò che portano in termini di rischi sia a livello respiratorio cardiovascolare sia soprattutto a livello ortopedico traumatologico. Tra l'altro, dottor Volpi, è quasi una febbre quella dei mondiali, ma la passione per lo sport si è un po' modificata nei tempi e nei modi. Sempre più persone accolgono l'invito di medici e di specialisti a praticare attività sportiva. Sicuramente il calcetto a voi viene facile, poi non posso parlare a lei che sicuramente è stato un campione di Serie A. Ho avuto questa informazione da Gigi Garanzini, perché io di calcio me ne intendo poco, ma sicuramente negli anni noi vediamo persone un pochino più mature rispetto alla passata generazione che praticano sport, e tra questi sport anche il calcetto. Quindi è un cambiamento che mi piacerebbe analizzare, perché apre degli scenari importanti e ci aiuta anche a entrare meglio nel tema di oggi. Sicuramente due considerazioni per inquadrare il fenomeno. La prima è che il calcetto nasce come sport non minore, ma preso dallo sport più popolare europeo, che è il calcio. Siccome non si può facilmente mettere insieme 22 persone all'aperto, noleggiare un campo grande, è nato da lì la possibilità di ridurre il campo e quindi giocare con numeri di giocatori inferiori e avere quindi la possibilità di fare una partita fra 10 persone, 5 contro 5, su terreni più piccoli e quindi anche strutturalmente più facili da reperire, sia all'aperto che al coperto. L'altro vantaggio era proprio quello di far giocare non in clima, diciamo, avverso, e quindi avere anche la possibilità di coprire questi campi. Questo è il primo dato. Ha avuto una grande diffusione, tant'è vero che oggi c'è una federazione apposta e anche dei campionati professionistici e quanto, che sviluppano tutta questo filone di sport. Quanto l'altro concetto fondamentale, quello che appunto accennava lei, che oggi è uno sport che si può fare a 15 anni, 14 anni, ma anche a 50, 55, 60 anni, perché ovviamente richiede movimenti più brevi, e ne parleremo ovviamente con tutti i rischi che possono anche esserci ovviamente. È più impegnativo il calcio o il calcetto per una persona mediamente allenata? sicuramente come impegno fisico più il calcio, perché come ho detto si muove su un'area molto più ampia e devi coprire spazi molto più ampi, devi correre, devi avere una resistenza, una capacità cardiovascolare molto più impegnativa, più consolidata. Il calcetto si può giocare anche, diciamo, non dico da fermi, ma comunque con movimenti più controllati, però attenzione, perché i rischi, da come vedremo dalle statistiche che ci sono e dai dati che abbiamo, sono per assurdo maggiori i rischi traumatici nel calcetto che non nel calcio. Allora, dottor Confalonieri, il dottor Volpi le ha lanciato la palla, perché parlando di rischi e di classifiche, sicuramente a queste lei si ispirerà per fare la domanda del giorno. Sì, la domanda del giorno oggi, sono stato colto un po' impreparato, ero distratto, affascinato nell'ascoltare il dottor Volpi. Comunque la domanda del giorno è proprio questa: preferite il calcio o il calcetto, ed eventualmente perché? E soprattutto, avete cominciato a giocare calcetto e avete dovuto abbandonarlo perché non eravate pronti da un punto di vista fisico e quindi diventava faticoso o poco divertente, o perché avete avuto problemi a livello ortopedico e traumatologico, quindi avete dovuto fermarvi per il classico infortunio? Quindi capire se e perché lo avete scelto, e poi eventualmente se avete avuto problemi perché avete dovuto abbandonarlo, così magari vi aiutiamo a tornare a giocare. 800 24 0024 e i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Ma non di solo calcio, di calcetto vive l'uomo, e per fortuna oggi si apre la stagione all'Arena di Verona, e questa è sicuramente una buona occasione per consigliare l'ascolto della musica lirica, non solo all'Arena. Pare infatti che questo tipo di musica sia in grado di far affiorare le emozioni più profonde. Ci sono numerose ricerche che lo dimostrano, ma una in particolare è tutta italiana. Ce ne parla la dottoressa Erika Sibillo, medico esperta in musicoterapia, che è tornata a trovarci. Dottoressa Sibillo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi. Allora, volete rilassarvi, allontanare lo stress? Le avete provate praticamente tutte, ma non disperate, perché c'è ancora una possibilità. Appunto, riserviamoci del tempo per ascoltare una bella opera lirica, e a questo punto viene giustamente da dire, meglio se lo facciamo dal vivo. Ma lo studio di cui lei accennava è uno studio che arriva proprio dai nostri cardiologi italiani, dall'Università di Pavia, che hanno pubblicato i loro risultati su una prestigiosa rivista scientifica internazionale che parla appunto di problemi cardiologici. Allora, il professor Bernardi, appunto dell'Università di Pavia, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Cardiovascolare dell'ospedale di Oxford in Inghilterra, è partito da un concetto molto semplice, cioè ascoltare musica può avere effetti benefici sul nostro sistema cardiovascolare, sia che noi stiamo ascoltando un bel concerto di Mozart piuttosto che l'ultimo album appena uscito di musica pop. Sì. La ricerca è stata molto interessante perché è durata ben 4 anni, ha coinvolto giovani volontari in buona salute, di cui alcuni con esperienza musicale alle spalle, altri estranei all'ambito musicale, e gli è stata fatta ascoltare musica di vario genere, tra cui anche brani scelti per esempio dalla Turandot di Puccini, con cui si inaugura questa sera la stagione all'Arena di Verona, ma anche opere di Verdi, dal Nabucco, il famoso Va pensiero, dalla Traviata, il famoso Brindisi, il Libia negli lieti calici, oltre che musiche dei Red Hot Chili Peppers, la musica etnica, dodecafonica, techno music. Insomma, arriviamo ai risultati. Il nostro organismo si adegua seguendo l'esatto andamento della musica, che significa il brano va più veloce, vorrà dire che il battito cardiaco e la frequenza respiratoria aumenteranno. Il brano decelera, allora anche cuore e respiro lo faranno, fino a che ritroveranno quel giusto equilibrio, portando il nostro corpo a un rilassamento generale. Dottor Confalonieri, musica anche per prepararsi a scendere in campo, se la dottoressa Sibillo, se abbiamo capito bene, il ritmo della musica aiuta anche il ritmo, no? Il nostro ritmo. Lei cosa consiglia? Chiedo anche al dottor Volpi. Sì, è molto utilizzata, secondo me il rock per attivarsi è sempre la cosa migliore. Consiglierei per esempio alcuni dei brani dell'ultimo Ligabue che sono eccezionali. Rilassamento post partita, io amo molto per esempio Parigio cara noi lasceremo, sempre dalla Traviata, che secondo me è perfetta per un post incontro. Dottor Volpi, secondo lei? Ci sono esperienze già consolidate nell'ambito professionistico, calcistico, mi riferisco gli allenatori che in passato hanno utilizzato la musica sia come fase di rilassamento prepartita, sia come fase ritmica per l'allenamento, e sono anche campioni squadre di Brasile, per esempio, nel passato, nei campionati del mondo, l'Italia stessa e tanti allenatori italiani e europei. Quindi sono assolutamente, come dire, percorsi che lo sport ha già in parte seguito, e mi fa piacere che questa ricerca sia stata portata come esempio. Dottoressa Sibillo, grande successo allora, concordano anche i nostri esperti, io la ringrazio e la saluto, buona Lirica. Grazie anche a tutti voi. Pronto soccorso. Ore 20. 7 maschiacci brutali fuggono dai loro comodi uffici e si ritrovano sul campo di battaglia. Cioè, ma voi veramente il calcio vi ha proprio tarlato il cervello, ma fin da piccoli, eh? Ci scopriamo! Ma che ci siamo messi d'accordo? Lo fanno tutti, anche i più grandi. A una certa età si va dietro. L'ha fatto Di Bartolomei, Di Biagio, Matteus, Scandellari, no? E chi è sto Scandellari? Il libero della bovina carne. Sei ultimo uomo! Sei ultimo uomo, non devi dribblare! Scusa, vabbè, ho provato un numero, non siamo qua per divertirci. Dottor Volpi, abbiamo ripreso il tema del giorno con un sorriso, con un breve estratto dal film Amore, bugie e calcetto, ma intanto che ascoltavano questo breve estratto io vedevo il dottor Volpi e il dottor Confalonieri sorridere, beati, perché già sentire parlare di calcio e calcetto, di questa atmosfera che si crea, dottor Volpi? Ma guardi, personalmente le posso dire che tutto lo sport mi affascina, ma il calcio in particolare è sempre stato, come dire, uno degli ingredienti, forse uno degli ingredienti, se non l'ingrediente più importante della mia vita, quindi capisce, quando io sento parlare di calcio o respiro il profumo quando vado in un campo di calcio, in uno spogliatoio, o dell'olio, dei massaggi o dell'erba, per me chiaramente sembra di ritornare all'infanzia e di riscoprire quei sapori che sono carissimi. Infatti io ve lo invidio un po', noi donne, ci sono anche donne che giocano a calcio e a calcetto, però a noi manca questo sport che diventa veramente un aggregante importante in quel periodo critico che è l'adolescenza, in cui molte ragazze magari smettono di andare in piscina, di fare danza, e rimangono un po' ingabbiate, mentre i ragazzi, due calci, adesso non offendetevi, ad un pallone, ecco che è subito movimento, gioia, voglia di stare insieme, confronto, competizione. Dottor Confalonieri, lei che dice? Ah sì, è una mia esperienza molto diversa, è un'esperienza che l'avrei voluto ma non potevo perché ero un disastro e sono rimasto tale, però c'è il calcetto del giovedì sera e poi c'è la grande passione per questo sport, sia professionale sia proprio il piacere di guardarlo e di provare a capirlo. Credo che sia davvero un importante elemento di aggregazione e in forme diverse assolutamente democratico, cioè disponibile per tutti. Dottor Volpi, quali sono, pensiamo ai giocatori di calcetto, quelli che si ritrovano il giovedì o insomma un giorno alla settimana, quali sono gli errori più frequenti? Dunque, il primo errore più frequente è quello di approcciare a un'attività di questo tipo senza un minimo di attività fisica, cioè di un background fisico che porta ovviamente a innalzare il rischio traumatico per quello che riguarda il mio osservatorio, ma anche il rischio cardiovascolare o quant'altro per la situazione generale corporea. La cosa che consiglio a tutti è, prima di cominciare qualsiasi attività sportiva, è quella di parlare con il proprio medico di base, prima di parlare con lo specialista, perché il medico di base oggi è ancora la figura che conosce meglio l'individuo e quindi può consigliare se è una persona che può affrontare con un regime di sicurezza quell'attività. Questo vale per il calcetto, ma vale per tutti gli sport. Non esiste purtroppo, oggi non esistono in Italia, tranne la visita medico-sportiva, dei cancelli medici, non c'è più la visita scolastica, non c'è più la visita militare. E quindi noi abbiamo praticamente il medico di base che è l'interlocutore primo per poter fare la prima semplice domanda: dottore, posso andare a giocare a calcetto? E questo è il primo gradino che uno deve salire. La seconda, la moglie, bisogna chiederlo. Non ve lo ricordate mai? Ivan, dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Sì, volevo approfittare del fatto di tutte le persone competenti che avete lì, no? Mm. Per portare la mia esperienza. Io gioco a calcio da sempre, ho 39 anni, ho cominciato a 8 anni, diciamo, 9 anni, e ho giocato a livello dilettantistico. Adesso purtroppo i ritmi sono diventati, voglio dire, dura stargli dietro, e allora ho cominciato a giocare a livello amatoriale a 11, però non disdegnando anche il calcetto a 5, ok? Sì. Cos'è successo? Che ad ottobre dell'anno passato, nel giocare a calcetto, nel tirare in porta, ma sono allenato e tutto, sono sempre allenato, ho calciato forte e ho sentito come un dolore sulla parte destra del ginocchio destro. Ok, dopodiché sono andato dai dottori e tutto. Il dubbio qual è? Il dubbio è che c'è stato un dottore che mi ha detto che potrebbe essere menisco. Ho fatto l'attacco, in effetti viene riscontrata una lesione al menisco. Ok, però il dottore stesso mi dice che non è detto che avendo una lesione al menisco a 40 anni uno debba essere operato di menisco, nel senso debba essere proprio quello la causa del problema. Sì. Perché? Perché in effetti io posso correre, fare tutto, tranne che lasciare andare la gamba. Un altro medico mi ha detto che potrebbe essere una sindrome della bandella iliotibiale, se non mi sbaglio. Sì. Il problema qual è? Che arriviamo alla domanda, Ivan. Sì. Perché ho anche Martino da Genova. Sì, se in effetti può non essere menisco, ma essere qualcos'altro. Forse è difficile dirlo, ma Ivan vuole continuare a giocare, non farsi operare e ritornare in forma, in ginocchio. Dottor Volpi. Ma la cosa da fare è fare una diagnosi certa e sicura, cioè affidarsi a uno specialista competente, ovviamente specialista del ginocchio, avere una diagnosi. Poi non è detto effettivamente che si debba ricorrere alla terapia chirurgica, ci sono anche terapie conservative. E quindi l'altra cosa che volevo dire è che è normale che avendo 39 anni e andando avanti negli anni è chiaro che aumentano i rischi e quindi è normale quello che può essere accaduto cambiando anche attività di sport. Non dimentichiamoci che il calcetto ha dei rischi legati anche ai terreni, perché sono spesso terreni sintetici con ritorni elastici differenti e molti di queste partite si giocano sul cemento, su terreni anche duri che mettono a dura prova i tendini e le strutture tendine. Quindi non bisogna semplificare, ma bisogna ben approfondire ogni cosa prima di dare delle soluzioni. Andiamo a Martino che ci chiama da Genova, 824 0024. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Martino, si è fatto male anche lei? No, dunque, allora, io sì, non mi sono fatto male. Ma... credo aver capito che mi si formano delle calcificazioni al tendine rotuleo. Anzi, è così, non credo aver capito, è così, perché mi ha fatto la risonanza magnetica. Ora, ho fatto tutte le terapie che mi sono state prescritte, onde d'urto e altre cose. Alla fine queste calcificazioni si distruggono, da quello che mi hanno spiegato, però poi provando a giocare a calcio, a calcetto, gli altri sport, correre, fare altre cose non mi dà, sciare, non dà nessun problema. Il fatto di riprendere a giocare a calcetto diventa impossibile. L'ortopedico mi dice non giochi più, la soluzione a Martino, glielo direi anch'io che non capisco nulla di sport, ma soprattutto di queste calcificazioni. Dottor Volpi, lei lo lascerebbe in panchina, lo manda a casa? No. Cosa gli fa fare Martino? Io fondamentalmente cerco sempre di dare una possibilità di ritorno a tutti, perché se uno ama lo sport è una cosa che non bisogna salvo casi eccezionalissimi ovviamente dove sei impossibilitato, quindi io non sarei così pessimista per Martino, però ovviamente anche qui una diagnosi corretta, capire se per esempio, come ho detto prima, i terreni possono incidere nel favorire una tendinosi, una calcificazione di tendine, in particolar modo al rotuleo e all'achilleo, che sono due strutture molto, molto sollecitate dal calcetto, e poi con una terapia magari anche alla fine chirurgica si può riparare questo tendine e consentire a Martino di ritornare a giocare. Appena finito di giocare a calcetto, fumare una sigaretta fa male, ci scrive Marco. Una risposta secca, dottor Confalonieri, perché dobbiamo andare ai mercati, al meteo. Ma se gioca a calcetto una volta alla settimana e si concede una sola sigaretta, direi di no. È maggiore il benessere che deriva dal piacere del danno di quell'unica sigaretta. Ci siamo, c'è chi guarda i mondiali e c'è chi invece scende in campo e gioca a calcetto. Oggi cerchiamo di fare un po' un'analisi su questa attività sportiva che piace molto, che sembra piacere e sembra anche essere adatta un po' a tutte le età, conquista. Naturalmente i nostri esperti hanno sottolineato che occorre primo, parlare con il medico, secondo, andare ad allenati. Invece molte volte io sento anche uomini che dicono io sono sportivo, gioco una volta alla settimana a calcetto, senza aggiungere dettagli, quindi mi preparo per la partita, mi riscaldo, ma noi di questo parleremo. Intanto, dottor Confalonieri, vantaggi e limiti, non voglio dire rischi, i rischi ci sono e li conosciamo, ma... Tocca a lei. Molto rapidamente, i vantaggi del calcetto per esempio rispetto al calcio è che l'impegno globale da un punto di vista fisiologico è minore, quindi occorre essere meno allenati per riuscire a divertirsi. C'è un altro vantaggio significativo, che molto spesso nel calcetto è possibile entrare e uscire, quindi riposarsi con una piccola pausa nel momento in cui si ha difficoltà. I rischi sono legati al fatto che è uno sport in cui c'è competizione e la competizione ci porta ad andare oltre, quindi a non graduare il nostro sforzo. È uno sport situazionale, cioè uno sport in cui non decidiamo noi quello che facciamo, a che intensità lo farlo e che movimenti facciamo, ma è la partita che ci porta a muoverci in un certo modo e con una certa intensità, e quindi questo favorisce l'insorgenza di infortuni. Inoltre è uno sport in cui facciamo brevi scatti, quindi brevi sforzi molto intensi, è uno sport anaerobico, uno sport che quindi impegna il sistema cardiovascolare in modo acuto, e quindi bisogna essere anche allenati e sani da un punto di vista cardiovascolare per evitare i rischi di complicanze anche significative ed importanti. Dottor Volpi? Ma innanzitutto l'approccio giusto è quello di conoscere il proprio corpo. Ognuno di noi deve, nelle proprie fasi di età, sia dall'adolescenza fino all'età oggi avanzata, mi fa piacere che tante persone che hanno anche 60-70 anni oggi praticano con entusiasmo lo sport in generale, e magari qualcuno anche il calcetto, devono conoscere bene tutti i limiti del proprio corpo, cioè sapere quali sono le loro problematiche, le difficoltà che può avere per esempio il loro ginocchio, piuttosto che la loro spalla, piuttosto che un loro tendine. Questo è il primo aspetto, che non dipende dallo sport, ma dipende dal proprio corpo. E poi i rischi del calcetto sono quelli di giocare su terreni spesso duri, di avere dei ritorni sui tendini elastici, quindi delle sollecitazioni molto importanti. E poi la terza cosa è che spesso si ha un'aderenza eccessiva del piede sul terreno, che non è un terreno che chiaramente tende a frenare la calzatura, a non determinare uno sliding, cioè una scivolata, e quindi questo determina molto spesso delle lesioni distorsive al ginocchio. Allora abbiamo Davide da Milano, Laura da Brescia e ancora un Davide, ma questa volta da Magenta. Davide, buongiorno a lei. Parlo con il Davide da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e i suoi ospiti, è un piacere parlare con lei. Grazie. Pronto? Grazie. Sì, la sentiamo. Io è doveroso fare prima la domanda e poi spiegare il motivo. Vorrei chiedere ai suoi ospiti un modo corretto per poter scaldare al meglio, il più possibile, praticamente le articolazioni delle gambe, perché io ho un caso disperato in famiglia che è straconciato, non ne può più proprio praticamente, però continua ad andare a giocare, continua a fare attività sportiva sempre al 100%, sì. E dà quindi, sempre il massimo. Quindi o legarlo oppure... No, legarlo è impossibile, stare a casa dal lavoro non se ne parla, e rinunciare quindi al calcio. Conviene riscaldarsi, allora. Esatto, grazie. Grazie a lei Davide. Dottor Confalonieri? Beh, il riscaldamento sarebbe importante, non lo fanno mai, non lo fa mai nessuno. Lei li vedo arrivare invece al campo, no, neanch'io. Sì. Li vedo arrivare al campo e cominciare subito perché c'è fame di partita. Sarebbe importante farlo, strutturarlo, magari con una piccola fase di corsa lenta o anche di passo, giusto per attivarsi da un punto di vista muscolare e cardiovascolare, un pochettino di stretching e di allungamento muscolare ben fatto, magari con qualcuno che ce l'ha insegnato prima, se no sono più i danni che non i benefici se lo facciamo copiando quello che vediamo in televisione, e poi un riscaldamento leggermente più intenso, quindi qualche accelerazione, qualche corsa un pochino più veloce e siamo pronti per giocare. 10-12 minuti in tutto ci mettono in condizione. Beh, non sono pochi, No. Però no, forse importante. Questa è la ragione per cui uno non li fa. Mi accontenterei 5? Anche di 5 o 6. Ecco. Laura da Brescia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo allora, qua. Io ho 43 anni e giocavo a calcio fino a dicembre, e a dicembre mi sono rotto il legamento crociato anteriore. Aia. E niente, per motivi di lavoro e quant'altro non riesco a fare l'operazione, perché l'intenzione è quella di fare l'operazione per ritornare, oltretutto a non giocare. Riesco ad operarmi. Sì, assolutamente. Cosa le piace? che soddisfazione prova? È quasi indescrivibile, cioè nel senso che io faccio sia tennis che calcio, facevo sia tennis, sì, che calcio, però il calcio è qualcosa che io non vedevo l'ora arrivasse la sera per fare la borsa e andare, insomma. E hai iniziato da quanto? Da quando era piccolo o no? È stata una passione. 18-19 anni, è stata una passione da sempre, perché giocavo nei campetti con gli amici all'oratorio da quando ero piccolissima. Poi dai 18-19 anni ho cominciato a giocare a livello professionista. Brava Laura, ma io sono molto contenta, dottor Volpi. Ma guardi, mi fa molto piacere questa sua affermazione, perché le dico anche un dato, così le farà piacere. Negli Stati Uniti, tra college e diciamo amatori, giocatrici, ci sono 5 milioni di donne, che sembra un numero inventato così astronomico, ma è la realtà, che praticano il calcio, il calcetto, il soccer americano, e che sono appassionate e hanno la passione che lei sta testimoniando con questa telefonata. Quanto al crociato, purtroppo è una delle lesioni, se non la lesione più frequente per chi pratica come rischio il calcetto, per il motivo che dicevo prima, per la forte aderenza della calzatura su un terreno che non è scivoloso, ma è un terreno rigido, e quindi determina spesso una rotazione non controllata del ginocchio che determina la lesione del crociato. Oggi con le tecniche moderne che abbiamo a disposizione è un intervento affidabilissimo, con un pochissimo in chirurgia mini-invasiva artroscopica, con recuperi molto rapidi. Quindi abbia una speranza concreta, stia tranquilla che se si fa operare ritornerà a fare quello che le piace fare. E se va in America? Se va in gioca America, se va in America trova un sacco di compagni o di attività per poter giocare. Dottor Confalonieri, noi dobbiamo lanciare anche un appello a questo punto alle nostre ascoltatrici. Proviamo, se lei poi ci allena sarebbe perfetto, diamoci anche noi al calcetto. Davide da Magenta, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, ai ospiti. Praticamente io gioco al calcetto da una decina di anni, sì. Unisco il calcetto una volta a settimana e unisco il calcetto la corsetta a piedi un paio di volte a settimana. Bravo, lei Davide fa già le cose per bene, perfetto. Insomma, vedo che qua sia il dottor Volpi che il dottor Confalonieri sono soddisfatti, quindi già lei è promosso. Però cosa le è successo? Da 3 anni a questa parte, ogni 3-4 mesi mi faccio male ai polpacci, mi infortuno i polpacci. Ho fatto ecografia e praticamente la diagnosi è stata strie ipercogene di significato fibrocalcico. Ho provato a fare fibrolisi, qualche massaggio ogni tanto, riprendo a giocare anche a correre quei 2 mesi e poi di nuovo come una cambiale. Davide, stia lì. Siamo qua con il polpaccio di Davide che ogni 2 mesi torna a dargli problemi. Dottor Volpi, che cos'ha questo polpaccio? Ma diciamo, come ho detto prima, che le lesioni muscolari, soprattutto dei gemelli, del tricipite surale, cioè quello detto in modo così semplicistico, il polpaccio, è un altro degli infortuni più frequenti nel calcetto, nel tennis, in tutti quegli sport dove ci sono delle superfici rigide, si fanno delle attività molto brevi di scatti, sì, soprattutto andando avanti negli anni. Quindi le cose da fare sono due: una, la prevenzione, cioè quello di fare molto stretching, l'elasticità muscolare, fare della cicletta o della bicicletta per irrobustire il gemello, e ci sono tante attività preventive che devono migliorare la tonicità. L'altra è quella di essere molto attenti al controllo della calzatura, quindi alzare e usare una calzatura che possa avere un potere ammortizzante e possa alzare il retropiede, di modo che stressa molto meno il gemello e consente di giocare su superfici rigide con una biomeccanica cambiata. Quindi un occhio alla biomeccanica e un occhio alla prevenzione. Dottor Confalonieri, lei spesso suggerisce di abbinare allo sport che pratichiamo un altro tipo di attività sportiva che completi, integri quella che pratichiamo magari con più passione. Abbiamo insistito molto sul lato della prevenzione e della preparazione per fare le cose per bene. Chi gioca a calcetto, quale altra attività sportiva dovrebbe fare per prepararsi, per avere fiato, per avere muscoli? Ma in questo caso, per esempio, partiamo proprio da Davide. Lui ha questa problematica al polpaccio e correttamente integrava uno sport come il calcetto con uno sport di tipo aerobico come la corsa. Però nel suo caso specifico io, piuttosto che la corsa, privilegierei per esempio il ciclismo, sia fatto eventualmente come cicletta in palestra, sia ancora meglio fatto durante il weekend, proprio perché in questo modo probabilmente riduce sicuramente il sovraccarico a livello del polpaccio, ma anzi riequilibra la situazione a livello muscolare, riducendo i rischi propri legati al calcetto di cui parlava il dottor Volpi. Quindi l'abbinamento tra un'attività aerobica e un'attività mista o prevalentemente anaerobica come il calcetto e il tennis va sempre consigliato, però io eviterei in questo caso la corsa, perché il sovraccarico risulta poi maggiore, proprio perché si utilizza la stessa catena muscolare, la stessa biomeccanica, e si sollecitano le articolazioni sempre nello stesso modo. Quindi la scelta è il nuoto piuttosto che il ciclismo, piuttosto che queste attività che, ottimali dal punto di vista cardiovascolare, non ci sovraccaricano sul piano ortopedico. Dottor Volpi, dopo una partita di calcetto si è stanchi, immagino, ma ci sono dei segnali che ci devono far capire che la nostra preparazione non è adeguata, che abbiamo tirato troppo la corda, che magari abbiamo le calzature sbagliate? Ci sono dei dolori che non vanno trascurati, oppure bisogna comunque tirare avanti e poi il giovedì dopo si torna di nuovo in campo? Esiste un dolore buono e un dolore cattivo. Nello sport, lo sportivo che ha di lungo corso sa distinguere quello che è il dolore buono dal dolore cattivo. Il dolore buono è quello che si ha dopo una partita che magari è stata strenua, che è stata uno sport, un'attività molto intensa, però si vede che piano piano nelle ore quasi quasi si trasforma da dolore a beneficio, cioè a benessere. Sì. Invece il dolore cosiddetto cattivo è quello che invece è un dolore che non passa, che poi l'hai la mattina dopo, che l'hai il giorno dopo, che si localizza in un punto, anche questo è un altro segnale negativo, e questo è una spia, come la spia della benzina, che ti segnala che in quel momento sei in difficoltà. Andiamo a Paolo, ci chiama da Torino, 824-0024. Buongiorno Paolo. Buongiorno, innanzitutto vi ringrazio che ci siete. Grazie Paolo, ci dica tutto. Niente, io ho un ragazzo che adesso ha 15 anni, giocava a pallone, e da una visita che ha fatto, solite visite che si fanno ogni inizio di campionato, hanno trovato che ha un problema al cuore. Innanzitutto mi hanno detto all'inizio che era un po' più grosso del normale, ma già lui è più grosso del normale, già come fisico. Sì. Niente, poi dalle varie visite che ha fatto, il risultato è che aveva una bicuspide aortica con lieve stenosi valvolare, che dicono, si chiama soffio al cuore, mi hanno detto, come discorso. Sì. Adesso volevo sapere, perché c'è chi mi dice che potrebbe giocare, però non è modo agonistico, no, chi dice non può più giocare, chi eccetera. Grazie. Chiediamo sapere solo qualcosa, ecco. Almeno a chi rivolgerci, qual è l'esame che permette di avere un quadro della situazione e giocare in modo sereno. Dottor Confalonieri, non si distragga. No, assolutamente, anche perché è una domanda impegnativa. Perché adesso tutti aspettano Gigi Garanzini. Guardi me. Ma perché il venerdì è una novità. Comunque direi che il problema non va assolutamente sottovalutato, nel senso che bisogna innanzitutto quantificare questa stenosi, cioè cosa comporta a livello poi emodinamico, sì, in termini di flussi e quindi di sovraccarico cardiaco. Un restringimento, esatto, vuol dire, in vero? Questo caso c'è anche un cuore ingrossato, non necessariamente il cuore è più grosso perché il ragazzo è più grosso, potrebbe esserci un'ipertrofia conseguente proprio alla fatica che fa il cuore a fronte di questa stenosi. Quindi direi che innanzitutto è necessario capire se anche per le prospettive di vita e di benessere del ragazzo sia utile approcciare questo problema. Poi valutare da un cardiologo dello sport il rischio legato alla pratica sportiva, e in questo caso se l'idoneità c'è, è un'idoneità in assoluto, sia per l'attività agonistica che per la non agonistica. Non possiamo differenziare la cosa, ecco, questo... perché i rischi sono comunque legati alla patologia in sé e non al tipo di attività, cioè all'intensità dell'attività. Allora, prima di salutarci, io tornerei ai mondiali. I mondiali ce li godiamo, ve li godete davanti alla TV, comodamente seduti. È lo sport, no, più piacevole da praticare. Tutti si sentono sportivi quando guardano giocare gli altri, ma di fronte alla TV si può anche portare qualche cosa da mangiare. E parliamo di TV Dinner insieme al dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano. Buongiorno dottor Speciani. Oh, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Questo è tempo di piatti da consumare magari su un vassoio davanti ai mondiali, facendo il tifo per la squadra del cuore, insomma quella più simpatica. Infatti io ho, sentendovi anche adesso, soprattutto le cose fondamentali sono: uno, non distrarsi mentre uno guarda, non ingrassare, che è giusto, e non avere delle crisi ipoglicemiche che poi ti fanno essere col patema d'animo e la sensazione terribile a metà del secondo tempo, no? Quindi bisogna coordinarsi delle cose. Poi io ho una mia teoria, secondo me, siccome amo molto il crudo vivo e colorato, dico che avere delle carote, dei sedani, così uno intanto le sgranocchia senza ingrassare, farsi venire male stranezze, in più se deve arrabbiare almeno rompe un sedano, rompe una carota e non rompe il televisore. E suggerisco mirtilli, albicocche da tenersi lì a sgranocchiare insieme, perché ti sgonfiano le gambe, così eviti poi di alzarti anche con i piedini gonfietti e ti fanno vedere meglio, perché l'azione ad esempio degli antocianosidi che sono presenti nel mirtillo è immediata, proprio vedi meglio. Quindi vedi meglio, le gambe sono, non sono gonfie. Senta, però ci abbiamo anche fame. Sì, allora intanto suggerisco, perché io arrivo alla sera che mangerei una cosa, per cui la carota la mangio, ma ne mangio un chilo. Però lì sempre vale il non distrarsi. Allora si possono fare dei buonissimi panini integrali con dentro insalata, pomodoro, una frittata si può fare senza friggerla al forno, quindi due uova, tre uova sbattute preparate già dalla sera prima, quindi una frittata fredda che uno mangia senza doversi sporcare, eccetera. Ma poi suggerisco comunque alle signore, se vogliono aiutare i mariti e compagni a vedere, non a guardare, di creare degli piccoli stuzzichini che io chiamo forza azzurri, nel senso che uno può farli di frutta in cui mette anguria, mela e kiwi, cioè bianco, rosso e verde, c'è. Sì, che è una cosa molto semplice che potete farvi anche da soli. Oppure vero, cetriolo, pomodoro e mozzarella. Uno magnifico. Se li fa bianco, rosso e verde e forza azzurri, si forza va avanti, azzurri. Grazie dottor Speciani. La saluto. Grazie dottor Volpi, tornerà a trovarci? Sicuramente sì. Meno male. Se avete dei dubbi potete scrivere sul sito di Humanitas. Il dottor Volpi è lo specialista del mese, il dottor Confalonieri invece lo potete risentire venerdì prossimo. Vado, vi saluto, noi ci sentiamo domani con Questa casa non è un albergo. Buona giornata.